Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Secondo appuntamento di questa settimana con l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre, ritroviamo il presidente Carlo Garofolini. Ciao Carlo. Ciao Mirko, un saluto a tutti gli ascoltatori. Parliamo di debiti, i debiti che purtroppo gli italiani non sempre riescono a onorare e a coprire, a ripagare, giusto? Certo, parliamo purtroppo di debiti e dobbiamo commentare, ahimè, un dato che è stato diffuso qualche giorno fa dall'Unirec, che è un'associazione che unisce le principali società di recupero crediti, che per definizione sono un po' i nemici acerrimi dell'Adico e di altre associazioni dei consumatori, di cui credo che molti nostri ascoltatori avranno avuto a che fare, anche se non lo auguriamo a nessuno, di cui certamente i dati diffusi fanno pensare a quella che è una situazione veramente drammatica, di cui sempre più persone e imprese rimangono vittime, e sono i famosi debiti. Debiti che sostanzialmente stanno raggiungendo valori incredibili, se pensiamo che solamente nell'ultimo anno, cioè nel 2012, la montagna di insoluti è praticamente raddoppiato, raggiungendo quota 34 miliardi di euro. E quindi non sono semplicemente i mutui, che ovviamente sono debiti a lungo termine, ma possono essere anche debiti più piccoli, ma che non si riescono, appunto, che gli italiani non riescono, non vogliono pagare, e che queste agenzie fanno sempre più fatica a recuperare. Sì, allora, per quanto riguarda la composizione di questa cifra, il settore principale dei debiti a cui le persone italiane e le imprese non riescono più a onorare riguardano proprio, hanno a che fare proprio con le banche o con le finanziarie, e qua parliamo di una bella fetta, intorno ai 25 miliardi di euro. Poi ci sono anche gli acquisti di beni di largo di consumo, e quindi i famosi debiti che si riscontrano praticamente per fare gli acquisti, come molte volte capita nei centri commerciali in altre parti, pensiamo dalle macchine alle moto, alle televisioni, ai beni tecnologici, e arriviamo fino anche alle carte di credito, revolving e canon leasing. Poi purtroppo, questa è un'altra situazione allarmante, sono addirittura i debiti che si riscontrano per riuscire a pagare le bollette, e anche qui certamente è un dato molto allarmante, perché oggi risulta una buona percentuale di famiglie che non riescono più a pagare quelli che normalmente sono le bollette di riscaldamento, di energia elettrica o le normali tasse che tutti gli anni o tutti i giorni ormai siamo abituati a pagare. Ecco, del caso delle bollette, anche del ritardo nei pagamenti, avevamo già parlato in un precedente collegamento, dicendo che erano cambiate un po' le cose a favore dei contribuenti. Certo, se il debito di un mutuo, cioè decine di migliaia di euro, normalmente il mutuo casa è ovviamente prevedibile e comprensibile che si possa far fatica a pagarlo, le bollette, che insomma possono essere al massimo a due zeri, ma non di più, fa specie, insomma, che nemmeno queste si riescano a pagare. Sì, anche perché, Mirko, quando si parla di queste cose bisogna anche parlare di quelli che sono poi il rischio del pignoramento dei conto correnti o dei stipendi o addirittura della casa, perché normalmente dobbiamo capire che se da una parte c'è stato un intervento di un intervento di bufera che in una circolare del 24 aprile di quest'anno ha stabilito come l'abitazione non può essere più pignorata per cause superiori agli 8.000 euro e non può essere più pignorato in percentuale lo stipendio da un decimo fino a un quinto indipendentemente dal valore dello stipendio. Dall'altro bisogna stare attenti che queste disposizioni riguardano normalmente i debiti che si riscontra con il fisco, mentre diversamente per quanto riguarda i debiti che si riscontrano con i privati, bisogna stare attenti perché tutta l'impalcatura, la struttura per il di un quinto dello stipendio o del pignoramento dei beni immobili o verso terzi è rimasta inalterata, e quindi sempre più persone si trovano anche nelle situazioni che abbiamo appena detto, quindi vittime di società di recupero crediti ecco, l'ufficiale giudiziario che rischia di venire a casa magari anche per una bolletta non pagata. Ecco, vedo infatti un doppio rischio, che gli ufficiali giudiziari e le società di recupero ovviamente dovranno fare il loro lavoro, ma c'è il rischio che diventino più aggressive. Dall'altra parte però il fatto che così non si paghino i debiti, oltre a essere chiaramente un indice della crisi, può indurre, come hanno fatto tanti grandi evasori, a comportamenti che non sono legali, cioè da parte del consumatore pensare tanto non mi fanno niente, posso anche lasciare il debito non pagato, però qui andiamo nell'illegalità. Certo, non pagare i debiti sicuramente si va nell'illegalità, e purtroppo accade che molte persone, molte imprese cercano di giocare su quelli che sono, su quella che è anche la tempistica della giustizia italiana, per arrivare sempre a un compromesso che possa permettere loro anche di chiudere in maniera diversa rispetto a quella che era una fattura che dovevano pagare. Oggi poi dobbiamo tenere conto che, al di là di quello che è questo dato di 34 miliardi di euro, che sono i debiti che gli italiani, le famiglie e le imprese hanno accumulato nel 2012, dobbiamo valutare e tener conto il fatto di come questo dato è raddoppiato rispetto al 2011, quindi questo certamente fa capire più come la crisi si sta accentuando rispetto a quello che non voglio pensare siano i furbetti. Noi stesso dell'Adico continuiamo a dire come le persone si stanno sempre più indebitando, ma come ci sono molte più persone che, oltre a non essere più in grado di pagare le bollette, non sono neanche più in grado di pagare quelle che sono le spese di gestione ordinaria di un condominio, le persone rimangono sempre più in arretrato con quelle che sono le spese più comuni, come la pulizia delle scale, come le spese dell'ascensore e come tante altre spese che normalmente le famiglie non si trovano più a dover sostenere, come una volta invece esitavano a poter fare con molta più facilità. Questo proprio perché i margini in questa crisi sono molto diminuiti e le famiglie veramente si stanno ingegnando ogni sorta di strategia per riuscire a sopravvivere, e certamente questo dato conferma il trend veramente negativo di questa fase. Allora, un conto sono i debiti dei singoli cittadini e dei privati, un conto sono i debiti delle aziende, quindi sono misure e dimensioni certamente diverse. Nel caso del singolo cittadino che dovesse vedersi appunto un'ingiunzione di pagamento o una richiesta dalle agenzie di recupero crediti, che cosa deve fare e quali diritti ha? Beh, certamente prima di arrivare a un decreto ingiuntivo, che è un ordine di pagamento che il debitore, che viene dato al debitore dal giudice mediante decreto, normalmente si cerca di trovare una soluzione extragiudiziale che permette al consumatore di poter rientrare, anche magari prevedendo quello che è una dilazione del pagamento rispetto a quelle che sono le proprie reali esigenze di poterlo onorare. In seconda cosa, se parliamo di mutui e qualche volta anche di finanziarie, dobbiamo tenere conto di quello che è stata la legge approvata un paio di anni fa, che è il progetto, che è la legge che aiuta le famiglie a poter sospendere i mutui fino alle rate del mutuo fino a 12 mesi, qualora per sopraggiunte condizioni o cause rispetto a quello che può essere aperta di un lavoro, problemi di salute, si può cercare di accedere tramite la propria banca. In terzo luogo, il nostro consiglio è, prima di trovarsi invischiati con giudici, avvocati o vittime di società di recupero crediti, con il rischio di vedersi pignorato un conto corrente o addirittura dei beni immobiliari oppure addirittura l'abitazione, comunque di prendere contatto anche con l'Adico, perché noi abbiamo proprio uno sportello denominato debiti e crediti, che cercano di trovare delle soluzioni conciliative e bonarie proprio per aiutare i consumatori e le famiglie che molte volte si trovano in questa situazione e che veramente poi con molta difficoltà si rischia di venire fuori, addirittura anche trovarsi iscritto a crisi e magari non poter più accedere a forme di prestiti e di finanziamenti. Allora, il nostro tempo per oggi è scaduto, siamo andati un po' oltre rispetto alla nostra media, ma il tema era certamente interessante. Ringraziamo l'Adico e la settimana prossima altri due argomenti. Grazie al presidente Carlo Garofolini, buon proseguimento. Grazie a te, Mirko, un saluto a tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori.